GR Europa. Un saluto da Gigi Donelli. Ripartita a pieno regime questa settimana la trattativa sul budget europeo, i soldi che finanziano l'Unione e che ovviamente gli Stati membri devono versare prima di ricevere. Il bilancio 2013 da una parte e soprattutto quello settennale, il 2014-2020, che ha portato qualche settimana fa al primo vero scontro tra Parlamento e Commissione. Martedì scorso i ministri delle finanze dei paesi dell'UE hanno convenuto di aggiungere 7 miliardi al budget 2013, presupposto che i parlamentari avevano indicato per riaprire la trattativa sul bilancio settennale. Il parlamentare europeo di nazionalità bulgara, Ivalo Kalfin, è uno dei due rapporteur sul budget 2014-2020. In un'intervista che ha realizzato per noi Letizia Marcakis di Euronet Plus a Bruxelles, ha ribadito che il tetto di spesa complessivo fissato in febbraio dai leader europei, dunque i 960 miliardi di euro, non è sufficiente e soprattutto ha detto che 6 miliardi di euro per il piano europeo per l'occupazione giovanile sono troppo pochi. Il dibattito ovviamente va avanti. L'Italia si abitua a tutto, ma l'Europa no. Ed è bufera su Mario Borghezio. Le sue frasi sulla ministra dell'integrazione, Cécile Kyenge, scandalizzano l'Europarlamento. Martin Schulz ha condannato con forza le parole di Borghezio. Così ha detto Armin Machmer, portavoce del presidente del Parlamento. Sono arrivate molte lamentele da molti eurodeputati. Non è la prima volta, in realtà, che il deputato del Carroccio solleva polemiche. Due anni fa fu addirittura sospeso per 3 mesi dalla stessa Lega Nord per un giudizio positivo sui valori difesi da Anders Breivik, il killer autore della strage di Utøya in Svezia. La sfida prioritaria per il Mezzogiorno rimane riuscire a utilizzare al meglio i fondi strutturali dell'UE, le uniche risorse sicure in tempi di crisi economica. Il messaggio che arriva da Bruxelles, dove al Parlamento europeo si è svolta una conferenza a cui hanno partecipato numerosi amministratori locali e regionali di Calabria, Abruzzo e Molise. Non bisogna inventarsi chissà cosa per far ripartire la crescita del Mezzogiorno. Gli esempi di buon governo esistono e vanno seguiti. Così l'eurodeputato del PD Pino Arlacchi, promotore dell'evento. E con questo abbiamo concluso. Naturalmente GR Europa torna lunedì intorno alle 15. Buon fine settimana. GR Europa è sostenuto dal Parlamento europeo. Info su radio24.it.